lezione 10, prego. Hola. Ciao Gianni. Ciao. Secondo. Poi. Ho già aperto, uscendo, sì? Ti hai dato la risposta da solo. Perché? Perché tu dici, bene sto uscendo, sì? Vabbè, era giusto, bene sto uscendo, sì o no? Sì, Luci, stai uscendo bene, sei come sei. Aspetta, ma fischi ciò, no? Perché tanto sa... Ma che problema, ora un po', ti lascio la portata. Vai a cuccia se ti porto, vai a cuccia. Mi sa che fidi. Stamattina, tu via, va bene. Sotto, poi si è graffiata, adesso l'ho tutta ripristinata, l'ho tutto rifatto. Come si stacca questa antenna? No, perché è pesante, quando cammini a velocità poi c'è l'avvento. Ah, ecco, cazzo. Infatti stamattina c'è un bel di vento, è freddo. Casino. È un casino già, questa antenna. E quella te la ce l'avevi già, sempre la solita. È la tua 2001. Ti mando, guarda, l'ho finito adesso di verniciare, di fare. Tutta levigata, fatta, cazzo lui, guarda, ogni aggravaglio. L'ho messo tutto il vocalizzante come guarnizione di tutta la forma. Qua è fatta bene, là. Stiga, cazzo, l'hai messa, cazzo, poi meno male l'hai ritrovata, adesso questa qua lo stesso, l'hai persa, sono andata rovinata, te l'hai sistemata, deve avere una calamita più potente, cavolo. Ehi, tu, questa qui è la seconda base magnetica che metto, l'altra l'ho tutta spaccata, tutto spaccata, la calamita non si muove più. Praticamente l'ho cambiato, adesso questa qua l'ho rifatta, però secondo me è meglio mettere la mini turbo e buonanotte, perché quella lì metterla solo da ferma e la mini turbo quando cammini, perché sennò se si stacca. Certo che sì, un casino questa antenna. Ah, guarda, grazie a Dio, stamattina c'era il vento, per quanto riguardava le fisse di casa, no? Flette, tranquilla, ma... ha fatto un bel lavoro, ecco, il restante un po' così. Sai cos'è anche il giramento di balle già, che stavo passando a ristrutturare le case. Siamo un lattucchino. Di solito quando fa il tetto te la fanno scendere. Adesso vediamo. Aspetta un attimo che vengo subito. Io vado in bagno, da. Luca, magari è. Beh, Lucrezia, ci sei. Elettrico, scusa. Ehi, ma segnare la radio sono bei furti. e l'altro è basso, ma questo qui è bello pomposo, ma forte però. Ah, e vabbè, comunque, io se ce l'ho come lo senti. Cosa? Ah, invece quello lì quanti fatti aveva? Può attaccarlo con l'attaccaccio di sigaro a vedere se la radio arriva bene. Non so, lo usavo in moto, me lo ricordo. C'era Luca poco fa. Io già sono sotto le coperte, non me lo fottino. Coperte in paio, è bella calda. Io sono sdraiato adesso, stavo verniciando sino adesso. Ma le ho portate a aggiustare. Ma quello dell'officina, te la deve fare lui. Ma tu, la candela controllata l'hai. Ma sarà benzina sporca. Eh beh, già. Buonasera. Ti ho mandato il messaggio, la crema già fatta, hai messo due, mezzo cucchiaio di cacao in polvere amaro. Come ti è uscita? Un buon boss, c'è la freddara che è buona. Se ti fa bene. Ciao a tu, te ne porto un po' dopo. Oh, mamma mia, mi nausea. No, ho fatto le analisi stamattina, sono andato bene con le analisi, tutte perfette. Quindi già le puoi mangiare. Lo so, ma vuole assegnarmi adesso tutte le glicemie. Adesso stasera esco, mi compro i bigni perché non ce li aveva i rospi. E me ne compro pure e me li pieno. Quando compro i bigni mi dico i bigni. E te a tu. Ti ho mandato la foto a me della cremuzza fatta. Guarda, mezzo litro di latte. Tu lo fai bollire, devi bollire e comunque ti fa l'impasto. 30 grammi di farina, un etto di zucchero e 4 torli d'uovo, quelli gialli. Ti fa l'impasto bene bene, bello amalgamato. Poi metti il latte a bollire, quando bolle metti al minimo, ci smatti tutto dentro, giri e si vasi la cremuzza. Il latte sì, lo devi bollire a parte, dopo che hai fatto l'impasto, quando sta bollendo, allora abbassi il gas e automaticamente ci butti tutto l'impasto dentro, della farina, dello zucchero, dell'uovo, e ho messo anche la cosa, la vanillina, e forse è meglio mia. Ma se tu c'hai cartapenna, io te lo dico piano piano, e così te lo scrivi. È una cazzata tu, l'hai tenuto tu fatto. No, tienici un mezzo litro. Ok. Poi, il latte lo metti già nel dove lo pentolino dove devi cucinarlo, capito? Devi far bollire. Siccome mezzo litro bolle in fretta, allora la fai? Ti prepari e in una scodella, io ho quella in plastica, ci ho messo 4 uova, poi ci bolli gialli, il mio lo butti via, poi se lo vuoi cucinare buono a te. Dopo 4 gialli ci devi mettere un etto di zucchero, io ho anche il peso, la bilancina piccolina. Dopo di un etto di zucchero ci metti 30 grammi di farina 00 e giri, io ho comprato anche il cacao, per farlo un pochettino anche il sapore di cacao è buono. E giri, quando è bello amalgamato, allora fai bollire il latte, quando vedi sta salendo la panna, comincia a quasi balzare, abbassi di colpo il gas e ci smutti quello che tu hai fatto l'impasto. E giri, vedi si diventa crema automaticamente. E io l'ho trovato in bimbi, non l'ho girato, sono ieri a tardi, ho fatto altre commissioni, in casino che... Dopo è scontato sarà freddata ai budelli, l'ho appena assaggiata, troppo buona tu. È una fesseria. Quindi, automaticamente, ti puoi far pegliare anche le bignie già biondi e te le riempi giù. Mezzo litro ci do un mezzo poco, ma hai pietà. Stai tranquillo che tu pasta non ne compri più, se tu vai. E infatti, ma la farina perché dura poco l'impasto che facciamo noi la crema. Quindi, 24 ore, indomani poi diventa acida, non serve più. Io ho messo la vanillina anziché mettere il limone, perché se metti troppo limone, grattugiato il limone la scorsa, quelli non trattati. Praticamente se metti troppo limone diventa acido, è un casino, capito? Allora ho messo la vanillina che è meglio. Ne ho fatto, ma la busta, cioè sono 3-4 buste del pacco. Ciao, Toni. E beh, la crema fatta, dai. Che messaggio, l'ho messo anche ma spolverato il cacao amaro, che buono. Andiamo bene, andiamo. Troppo buono, Aspetta, Toni, posso in moto dal tuo computer? Ma non ci preoccupato, non riesco a connettermi, oh Luca. Beh, devi mettere la password del modem. Se non me la cerca la password, cosa vuol dire? Impossibile connettersi, mi dice. Connetti automaticamente, io vado là e poi niente. Ma devi connettere automaticamente, devi mettere la password prima, poi connetti automaticamente, no? E se non me la chiede la password, come faccio a metterla? Per forza te la chiede, ma c'è il modem a casa. Cappa. Per forza ce l'hai, per forza. È in automatico, cioè quando tu fai una... che metti un coso, come si dice, un... internet a casa, il modem è bloccato con la password. Dovresti avere una password da qualche parte, controlla sotto il modem, controlla. C'è per forza. Allora, ti spiego, quando quello è venuto a mettermi il modem, ha detto, ma la puoi cambiare la password? Sì. Cosa vuoi mettere? E l'ho messo quello che ho detto io. Ok, e me l'ha messo anche nel televisore, che ho il televisore 60 pollici. E forse tra anche qualsiasi posto su Facebook, eccetera, eccetera. Comunque. Però nel computer non riesco proprio a farlo. Io ho quel modem della Link, però non c'è, diciamo, le antennine come c'era mio figlio il modem. Cazzo, io ho quello senza antennina, salva isso, eppure col telefonino mi arriva a segnale massimo e anche le computer. Scusa un attimo, c'ha il wifi, non c'entra niente, ma qui io ho il modem senza antennina, non c'entra niente. Ha il wifi. Ma certo c'è il wifi. E allora, cosa c'entra le antennine? Le antennine ce le ha interne. Ma che quello che ho io adesso, il modem, è senza antennina. E l'ho connesso a quello io. E cosa adesso, forse che non riesco a entrare io, non so, dopo ci riprovo. Comunque su Google sono entrato subito. No, ma se non è connesso non entro su Google. Forse la pagina vecchia, mia. Se la pagina vecchia mi è uscito Google, però ho messo Facebook nuda. Non mi ha fatto entrare. No, no, non ti fa entrare, solo con il capito. E dopo con calma ci riprovo, Luca. Era più interessato a farmi la crema. Ah, ma liquore dici? No, no, ho fatto la crema per le paste. Ah, la crema per le paste? Ah, davvero che devi riempire queste paste, io. E pensavo la crema di limoncino, o la crema, o la o limoncino. No, no, la crema. Così dopo esco e la compro un po' di bignè, quelli vuoti, qualche nome lo riempio, non sai se non a voi, o via. Nathalie, ma Nathalie non c'è più. Gianni. Ehi, qua solo. Ehi, qua sì. Allora, questi bignè già pronti le vuoi? Ma che stavo scherzando. Poi, oggi ce l'ho vicino a posto. E me, metto la fuori posto qualche volta. Però le basi di rovare gli altri piatti, sì. Già mi piacciono anche. Però ho visto un po' di grumi con la crema, No, come stava bollendo e tutto tolto, ho fatto la foto. Ma no, è liscia liscia, già. Prima era gialla, bella. E niente, poi ho sciolto le latte di cacao, bellissima. Quando è agrumi vuol dire che non ha sciolto bene. Oppure si stava attaccando. No, che c'ho il frullatore elettrico, io ho fatto bella liscia liscia. E poi stavo sempre girando quando stavo cucinando insieme al latte. No, tranquillo. No, è liscia già, se la vedete è più cremosa, cioè me la cremosa, non ce ne sono grumi. Ma se andando a vedere i bignè? Oh, ma c'è preparazione nell'11, pazzesco, Sì, l'ho sentito, anche io, pari di splatter, addirittura. Ma c'era anche Natalino, no, già. Natalie. Ehi, sono qua. L'hai visto la foto? E dopo la guardo. Buona è uscita. Un be. E visto. Ah, ma vedi bene, arrivi e vedrai che c'è di lusso. Ne dovevi fare un po' normale e un po' al cioccolato. Così ci avevi due tipi di crema, mi. Oppure in quella bianca puoi mettere anche la marsala. Allora la crema marsala quanto è buona. Non hai idea tu. Vabbè, adesso l'ho fatta così. Comunque, per la cronaca, vendo i bignì 50 centesimi l'uno, signori, quanta ne volete? Io sono bucungato. Oh, Tori, il massacapoci l'ho comprato. Il massacchi? Il sacapoci l'ho comprato. Il sacapoci, e non c'è male sul chi è? Il sacchetto per riempire i bignì. Quello parla in italiano, sacapoci. Che dice Natalino, rimane giù di sacapoci. No, ce ne metto diversamente, non ti preoccupare. Guarda che c'è da dirti, se vieni vicino a casa lo trovi, così mi porti la crema. come sono le muribbe, mica ti fa male. Puzzinosa, te l'immaginesi? No, andava, così impara. Natale, oggi sono andato a fare le analisi, tutto a posto. Ho migliorato molto, ho tutti i valori a posto. Ma chi se ne può approfittare a mangiare, eh? La cremuzza? C'è tu che ci abbiamo un contattore? No, io non le mangio, no. Ci abbiamo un contattore, tutto, non fai da frequentare a te, mi fai gli avvenini. Non c'è andare, Tony, così impara. Vai solo diritto a comprarti il sacchetto e te ne ritorni indietro, e a lui non gliele dai, così impara. Non c'è andare, Tino. Tanto ce la mangiamo l'una a tre. Oh, male. Mica io sono come una famiglia, mi bello bene. Ma io sei a pronta. E se ti vuoi di prova per fare la crema, ma... Se mamma la pazzivona, mia mamma ce la fa più, se no mamma ce la fa buona, si vuole la fredda. Ma sai quando faceva la zuppa inglese, ma da 3 kg, mi, si la, non dico che si la gribava tutta tanta edda, quasi. La fa veramente buona la crema, mamma. La faceva, adesso non più. Io ho provato per la prima volta, Luca, grazie a Dio mi è uscita buona. Ma quel mezzo litro che ho fatto, gira gira, posso condirmi anche una piccola torta, amico. Lui anche a mamma la faceva un bel buona, ci metteva anche le scorze della buccia del limone, però di quello non medicato, quello biologico. Oltre che lattano, gli metteva le scorze, ma non c'è quante la voce. Enrico, vogliamo parlare della pasta e ceci per farvi capire, pasta le lenticchie, non ce n'è ormai. Vabbè, non dico che c'è una storia che sia morta, però ce la fa stare in piedi, capito? Ormai è buttata da sagussi, quantiere. Vabbè, pazienza. Cioè, faremo una ragione, dove lo fa. Però la fa veramente buona, cioè la fa, ce la fa. Non cammina lui adesso. Cioè, lettami il... quando è? Allora, oggi è 6. Oggi è 6... Sì, lunedì. Mercoledì c'è la visita dal diabetologo. E poi giovedì fa 77 anni. No, per sì. Non è tanto anziana, dai. Non è tanto grande. Lo so. È lei che ci sta lasciando andare. Capito, prendo la pastiglia, si drombi, boh, ciao, invece grazie. E invece deve camminare anche per il diabete, deve fare movimento. Cammina, il diabete ce li ha 300, ce ne ha, visto, vabbè, molto prima, l'anno, cioè, l'anno, a dicembre, novembre, 400 quasi, Troppo. Io oggi per dire, mi sono comprato le bietole, mangio solo bietole stasera, e insalata. Così non ti fanno salire la glicemia, puoi mangiare anche uova, le uova non le fanno salire la glicemia, lo sai? Già, ma di solito te la fa salire la pasta, te la fa salire il pane, la pizza, poi sotto sotto mangia lì, arance, banane, e ne mangia cosa, fruttini. La banana è un frutto che non dovrebbe mangiare. E pure la mangia. Di non mangiare lì, a me mi ha fatto brutto scherzo. Che ti fanno salire di brutto la glicemia, mi. Devi non mangiare le banane, Luca. Io neanche le mangio, non ho proibite. Forse il suo diabete è pizzicato un po' a tutti, Tipo a casa c'era mio fratello il più grande, proprio nella pastiglia, non fa insulina. E Stefano. Pure Stefano? Sì, anche Stefano. Di solito quando c'è la madre che c'è il diabete, anche i figli sono predisposti, capito? E mamma era diabetica lo stesso. In caso avere nessuno già. Ah, non mi giuro la glicemia, la mamma ti fa la Nutella, aspetta. No, dopo 2 ore si mi giuro. In caso non avere nessuno diabete, comunque poco fa involontariamente stava parlando Luca e Natalino sotto non è passato. Natalino cosa stava dicendo? Natalino. Dimmi. Cosa stai dicendo poco fa? Quando è mollato tu c'era Luca parlando. E non mangia più le banane Natalino, le prende buh. E a chi mi chiamo Gianni doppio rum a prendere le banane. Io non le prendo e non le mangio. Perché una volta che me ne ho mangiato una mi ha fatto un brutto scherzo. Come ho misurato la glicemia da via Vestelli, ho detto, e non ne ho più mangiato dalla volta. Non lo sai, ma cazzo, queste frutte che non puoi mangiare. proibitive, i fichi, tutta quella frutteria sono dolcissime. E uno la puoi mangiare, è buono, dai, C10, uno è buono, capito? Non è che la banana è zero proprio, quello sì. A me, perché mia moglie, ma se mangia tra una non ti fa niente. E invece altro non mi ha fatto nulla, eh. Infatti più banane, assolutamente. Ma come è la vitamina D bassa? Accanto si è alzata la tarina. Non me lo ricordo, ma mi è salita, a me non mi sale, alta. Alta era comunque, perché avevo mangiato questa banana sotto insistenza di mia moglie, non ne mangio più, lei si ribiglia, da noi diabetica, no? Io che sono diabetico, non ne mangio. Va bene, una coppia bisogna che ci sia sempre qualcuno che faccia quello che non può fare l'altro. Infatti ne approfitta con gente, se ne mangia etta, non può prendere la natalizia, ne mangia etta, poi già dici c'erano buone. L'importante c'è. No, non ne compro neanche, io già si ricompare già etta, che si negava tutti i rivisi. Ah, fa bene. La mattina sono andato a comprare il cherosene e stavo per entrare da Cosumi. Dove si è andato tutto a prendere la baguette. E poi ti vediamo anche la mortadella. Allora, vediamo un tentatore questo Tonio. Io? Mica le sono attaccato la mortadella baguette qui. Ah, però già non ne ho preso, se no mi toccava prendere pure la mortadella. E io non va più un gustetto, se no rientrate me l'avevo umiliato. manca arrivita, vero? Manco un terra via Ducato. Come faccio anch'io. Dunque ce la porto a dire. E vabbè, a futtidini, a passi, Tony. E chi c'è, ma c'è fatti, tutti passati. Luca, e me è controllato. Attenzione, Luca. Niente, senza fa. Dai, continua a mettermi tu il QRM, che bello. Avanti già. Ehi, vabbè. KK. Vabbè, dai. Non l'aspetta allora la crema con i vini. Ma a me se vuoi proprio ce la faccio, dai, devo trovare il vinifero prima. Ah, li trovi da ditta, li copri e si accapposce i vini. E noi abbiamo i nonchi, eh? A qua sono portanti già, se ho mento, così, va bene. Vai, già fa. Qua la paci, come se non ci fosse. Ok, allora va bene così, dai. Non consumiamo corrente, fino a debatta. Sì, infatti. Tu l'altra volta che la fai la crema, prova a mettere la marsala, dici la crema da baione paurosa. Sì, ma da lì quanto ne metto? Poco di marsala? Ne metti appena di marsala e la giri, no? E dici la crema da baione che ti ne vai a linghi di baffi, buru. Però non mi dà già, mi, non voglio dannaggiarmi. Marsala non gliela do. Avvicinai a livelli la gelosia. No, a chi su già negata prima la magna e poi nega. So quello chi sono. Te ne conosci uno che fa di così. E chi è? Antonino. Non penso proprio, no. Poi se ne mangio uno e blu. E Anto. D'accordo, Antonio. Ma va che Antonio ci fa la crema, mi. Cappagato. Io ho tutta la pergamina, sta raffreddando già, sai, bubendica. Io no, a farla per una persona solo non fa, Tonica. Se devi dire mangiare sanguglioni, la devi mangiare. Ma io ho provato a farla, che è la prima volta, ho visto come mi dice, ok, la prossima volta è forse di più. Perché da solo non ce la fa a mangiartela tutta, o ce la fa? Oh, 128. Dice mia le stelle. 128 già. 128. Massimo è 120, ma magari è perché deve ancora assimilare il pancreas. No, Gianni, tranquillo, è buono 128. Io ho detto anche il mio come cavolo si chiama? Il dottor Fancillo, che è diabetologo, ho detto ce l'ho a 140. Va bene, è buono, non ti preoccupare. Quando sale quasi a 180, allora già comincia a essere già un po' così, capito? Quindi 128 è ottima, Gianni, tranquillo. Sì, ma lui ha parlato per un diabetico, non per una persona normale. Una persona normale al massimo è 120, anzi adesso è abbassata a 90. Prima era 120, adesso è 90. Ah, dovrei essere diabetico già, se ce lo usi. Diabetica, se non sbaglio. Ma sono diabetico già. Cosa? Ah, sono diabetico. No, non hai assimilato ancora, dopo due ore si misura lui, se te ho appena mangiato, è inutile che la misuri così. Ah, tu te l'hai misurata, Luca? Sì, io la misuro io allora. Non fa niente, è tranquillo, normale, cosa già, non va a succedere, non va nulla. Lo faccio anche a mia figlia, a mia moglie e io, che è pietina. E quando anche 125 si mangia un pezzo di torta e cosa, poi ritorna normale, 98, ritorna. Sì, non lo fa comunque, a me poi torna normale, 98, 92. Capito? Una volta Maria ce l'aveva 78. Ma io ce l'avevo a 70 lì. Io gliel'ho detto che non è passato il tempo, gliel'ho detto pure, non hai sentito, forse non hai capito. E dopo due ore va bene, mi sa misurare, giustamente se mangia roba dolce, capito? Però uno che non è diabetico cosa si misura a fare? Oh, ma io sto misurando quando sono diabetico, e ti ripeto, è sempre ottimo, io poco fa me l'ho misurata, mi sembra che ce l'avevo a 111, invece un po'. Dopo mi mangio qualche po' di cremuzza, anche se mi sale 140 non mi ha fatto più nulla. Ma non hai assaggiato nulla? La punta del cucchiaino, è buono. Dopo vi gridi, a te le mangi a Natale, come dice Gianni? A vi grido. Vabbè, comunque pane o la baguette, il pane, lo stesso te la fa salire, il pane l'ho mangiato anche a pranzo, ho fatto un bagno, mezza baguette, un pezzo di baguette di salame e fontina, poi mi sono mangiato, se ho chiesto un po' di pacco di patatine, mezzo pacco, dai. Capito già, io le mangio meglio, c'è un ba- le mangio meglio, ripeto, a momenti, capito? Ma non c'è niente, sicuramente non c'è niente. Cosa ti stavo dicendo, Lu? Le baguette dove le compri? Io l'ho presa dalla coppia mia cazzo di retta. Ah, cappa. Ma le calde? No, ma anche no, tu sai che è una valla, vabbè. Quando sono calde e calde sono buone. Però quando stanno un po' ferme si secca il culo, no? Della baguette. Tutto è duro, duro. Vabbè, che non lo piano, che non lo piatta. No, io non lo taglio, quando mi faccio il segno con la mortadella lo taglio, questo è troppo duro, non ve la prendo un dito. E a Luca, all'ero spiri viene a farlo torce, trovi caldo e caldo che le vuoi baguette, che belluccia. La baguette è calda a calda, non ce l'è. Ci metti un filo di Nutella, Mamma mia, no, io c'ho la mortadella. Vabbè, mortadella, Nutella, quando sono calde così, sono un amore, sono. Quelle vanno bene al mare, calde e calde, te le porti al mare d'estate, in asussa. Mortadella, Michele. Stamattina stavo per entrare e che dovevi andare a pigliare un cherosene, se no allora, ed entra davvero. Cioè che vado a assaggiare un po' la cremuccia a vedere che livello è. E falla raffreddare Tonini, la magna calda. A me mi piace proprio crema a crema, non mi piace il cioccolato, mi piace proprio la crema, la crema. Ehi, e perché se assaggia la, con la marsala, la crema zabaglione si chiama, e mi diverue. Allora io sono su internet e ci sono tutti i tipi di crema che puoi fare. Me ne sono 750.000 di tipi di crema, però non ti dice la quantità, ti dice cosa devi mettere ma non ti dice la quantità. Io già lo so come si fa. Tu avevi tutta la pappalentera e pasticcini. A me quella che piace di più è quella allo zabaglione, la crema zabaglione è fantastica. Allora si può fare la crema al limone con l'aggiunta di limone e di vaniglia. Oh, buona vita. Canta è buona! Aspetta! Buona esse! Ehi, un bel. E cos'è questa cosa? La nave. Fatta la nave. No, quella della nonna. Quella della nonna è 4 turni, 40 grammi di farina, 100 grammi di zucchero, 400 ml di latte e una stecca di vaniglia. Sì, quella la vendono a secche pure la vaniglia. Oppure di quelle bustine di vanillina ci metti. non vi fidate col limone, perché il limone se ne metti troppo ti fa la crema che sembra guasta, mi acida, te la fa. Io ho messo la vanillina, e va tu, ma chi si non sa dosare un limone dirà pari gli sia guasta, mi acida, dirà vanni. Ascolta, si è fatto il fumo in mezzo a te lì. Cazzo che storia. Un po' di erba, cosa fa? Come difetta? Acido lattico. Vai, che storia, ce la fumiamo tutta. La vanillina già è profumata, bella, cara. La metti in mezzo, c'è per sapore. No Gianni, ho messo una spolverata di cacao amaro e blu. E ma ne fatta amaro? Beh dai, forse domani la posso giara. Ma ne devi fare metà al cioccolato, neanche, un quarto al cioccolato, un quarto bianca e un quarto la fai allo zabaglione, c'hai tre tipi di crema. E ti vai di vignego, sì. Rivieni con questa roba e mi diverue. Vabbè, ma dovevo dividerla, non ci ho pensato. Adesso ci va tutta carta al cioccolato. Poi. Tutto al cioccolato, ma non andava così. Un bianca ne devi dagare. Vabbè, se ne hai fatto mezzo litro solo. Che poi da portate, ma siete tutti via. Che ne portate? Via. Sì, Arbo. E lei è mancato il blu. Noia. Pirrini, accanto ai tre buoni. Luca, da te passo. Sì. E 9, tu sei 9 perché ti dovevi 20. Hai già portato a me 9 10. Io passo, sì. Ragazzi, passi tutti. È un innesco che sta facendo col microfono. E niente, guarda, fastidiose, va. Che non ha niente di fa, capito, visto? Quindi non so cosa di fa, faccio una passeggiata, o piace la gola, piccassi. Sopra paruna, io se mangiava. La tira di quando entra il volo. No, la tira di questo capalumulo non andava. Non è nulla, sempre che è meglio. Allora, ma che metto cosa sta guidando la ruspa? L'hai visto dopo, non dopo adesso? No, l'ho visto su Facebook, era sicuramente al volo industriale. E chi l'ha più visto e più sentito già? Non l'ho più visto, era su Facebook, l'altro giorno c'erano dei filmati e c'era la ruspa e cosa, lui era vicino, penso che stia guidando la ruspa. No, l'ho più visto e sentito già, sinceramente parlando non me la fotti nulla. Ah, Briato? No. No, già, io non brino con nessuno. La Cipriana è laggiù, la Cipriana. Faccio bene a tutti. Tanto più bene ti compro di più in colotta la metto, capito? Cos'è vostro, se non lo so. Avanti, tu. Dai, domani faccio 3 guste, Poi già compro quella tirobuscio. Fai pena, gli bini. E poi te la reggo 3 tipi di pesci. Prego. Avanti, prego. Buonasera, potrei avere un controllino qua da Sud America? Buonasera, Salvidio. Anzi, Salvidio, buonasera. Buonasera a tutti, dai. Sono uscito a fare delle commissioni e vi ascolto, va, che sto guidando. Via. KK. Dove ci siamo? Adesso Monte Rosello. Coordinate zona Micicco, dai. KK, dai. Già ci sento bene. No, questo non ho capito, ciao Savi. Adesso Monte Rosello, coordinate del biciclo. Ah, devi andare al biciclo. Mi sono dimenticato una parola a Tonì. Direzione biciclo. Hai capito. L'ho capito dopo. Io già l'ho capito, lascio in testa. Comunque Savirio, sappi che sto dando i bignì con fili di crema a 50 centesimi. I bignì ripieni di crema. E alla zabaglione, al cacao, alla cremuzza. Buoni, media dozzine, tipo fili di agnello. io, ma sei buona, vieni a mangiare la crema, se no si raccisce. Natalì, quanto dura la crema così? Natalino? Che sto facendo una storia al telefono. Un paio d'anni dura. L'inverno dura di più, d'estate si inacidisce subito. Vabbè, fino a domani da dura, sì. Ehi, un chiubretto, ha voglia. La buona in frigo, se no. Ah, fresca è più buona. Quella si sta via te la mangio. Parmigiani, che cavolo, mi manca il miglio. Il budone mi faccia al cioccolato. Sì. È molto buono il budino, mamma mia. Il cioccolato non mattia, non è che non mi piace, però preferisco quello normale, quello si chiama, non la panella, la creme caramel, quello è buono, quello sì. Troppo dolce, non mi piace. A me mi piace o al cioccolato o la vaniglia. La maniglia è dolce, ho già. Ma è buona. Non so, però tutti i cannoni che vengono più di mezzo di crema. Beh, alla fine già la crema la metto un po' zucchero, Poi tu hai ragione, troppo zucchero, troppo dolce. Basta non mettere la crema caramel. Semplice. Comunque Gianni, io l'ho fatta per come usciva, ho visto che esce bene, ok, allora siamo già pasticceri. Sì, quella è la cosa più semplice che c'è da fare, la crema, c'è anche scritto, è una cosa semplicissima. Vabbè, non lo sapevo, l'ho fatta e mi è venuta bene, adesso la farò diversamente, come metto Natalino, tre tipi. Adesso impara a fare la torta, la spacchi in due e ci metti la crema dentro. Siti mia zio, sempre me la regga a casa. Ti rompo lo smitter. Sì, c'è Smith, già sa vedere, Smith si dice. La carità, ti fa culo cose, lui, va. La colonnina che perché è, va a chiudere le refeghine, da bagata. La metà da faccia. Non c'è un manuda. Una telefonata. Lascia però la radio, bella, proprio una telefonata, bene bene, perfetto. Mi sono agganciato, ci che sacco. No, mi sono già, sono in discesella qua, discesella quella di Via Sorso, cambio. Poi c'è riposo? Deciso. Io mi sto riprendendo ora, sto facendo alcun antibiotico, bronchite. No, non stai lavorando? Negatrudio. Bronchite brutta, io c'avevo una tosse di merda, meno male, poi. Allora, col primo ciclo di sciroppo mi è passato, zero. Poi ho preso quello che prendo io quando viene la tosse, il Visopol. Ma con quello lì, ma dopo un po' l'avete la fatta passare. Tosse brutta, catarro, mai avuto in catarro in vita mia. A me non si dice niente, io ce l'ho ingolfato proprio, tosse di brutto, un po' di dolori, stati influenzali, capito? E cioè, a me, la prima volta mi è venuta perché usavo la muta tutta quanta stracciata, mi è venuta pescando la bronchite e a tubare in viaggio mi dica. Se non mi torna tutti gli anni, sì, capito? E faccio un ciclo di antibiotico, come faccio? Casino. Che c'era? Ma Antonio Bombolino non c'è, Bombolino. Ha fatto quell'X. Ah, ok. Un attimo di bianco che guardo un ciclo di fisico di crema. Sì, vedo subito. Io ti vado a cuscia. Poi c'era un periodo, già la mattina, no, ma fai colazione, tipo alle 6:30 faccio colazione, perché poi ci sono da portare i carichi, una cosa e l'altra, poi quando esci, tipo alle 8, no, 8:15, ti vieni 8:15, 8:20, fai 8:30, così, passi vicino al bar, ti viene la voglia di mangiare una frittella, ma già non ti butti, corri a casa, lì sì. Perché la mattina sono calde, c'è la crema calda, capito? Sono buone, molto buone, che le fa Roberto in via Pascoli, dove c'è la Moccador. Cazzo, sono uno spettacolo con le frittelle. Le fa anche con la Nutella, però con la Nutella non mi piace. Ehi, quello è Murillo. No, le fa Roberto, un amico mio. Ma la pasticceria di Murillo? No, al bar, no, niente, è Murillo col bar. Ah, al bar stai dicendo. Al bar, allora. Il bar che c'è lì via Pascoli, dove c'è il semaforo lì, proprio lì. Le porta Roberto, ma sono buone, proprio la crema buona, proprio guarda, sono uno spettacolo con le frittelle. Perché secondo me le prendi non sono buone. E a fianco c'è la pasticceria di Murillo. Ma proprio lei non ci stai più andando. Che è detto KK? Io l'ho mangiato da poco le... i cannoni di Brotollella, adesso già pone a cannoncino pieno di crema, mamma mia, ti esce dagli angoli della bocca la crema. Un metro e mezzo te l'hai mangiato i cannoni tu. Bello vero. Buona comunque, Sai cosa faccio domani mattina? Siccome io ho il croissant di marmellata, quelli congelati, le metto nel forno, dopo che sono belli abbrustoliti, belli belli, le apro, le metto un po' di crema, E poi un pasticcio, perché crema e marmellata, brutto, non si sta di un... Marmellata me la mangio prima, me la tolgo un cucchiaino. Mi torna a bevi. Ma no, per la teoria, sto partendo. Bonino. E a chi chiama? Il Natalino sono, ti stavo dicendo, quando la spegni dal fuoco la devi svuotare in un altro recipiente per raffreddare, non la lasciare dove l'hai cucinata la crema, no? Che sennò continua a cucinare. Tranquillo, già travasata. Se continuiamo così me la mangio tutta. Tony, mamma la faceva, la metteva a nascondere la colazione, poi la lasciava raffreddare, la metteva nel frigorifero, sta da buio anche la moglie. Mi pare mangiare un pochino al cioccolato qua. Ma vai fruscelli. Sì, guarda. Ma poi non passa, fosse stato un segnale forte. Che gusto ci prendono a mettere la portante, non ho capito. E ha fatto il contratto con l'Ele. Un attimo che mi sposto, non vado a mangiare, non preoccuparti. Che dopo un'altra cosettina devo fare. Oh, già, c'è questo tipo stigato uguale, identico, spiccicato, allenato zero. Allucinante. Ma canta oppure spiccicato di vista? No, spiccicato di sosia, uguale identico a lui. La macchinetta zero. Fuori di te. Ma dove? E canta, sì. Ciao, che Chico Solina se lo fa bene. E chi non ci crede Renato Zero a vista? Cosa già? E Chico Solina se si crede Renato Zero. Sì. Beh. Già. Aspetta. C'era uno una volta che si chiamava, che imitava tutti i cantanti, ne faceva uno meglio dell'altro. Cavolo, ce ne sono tanti soldi. Ma fino adesso facciamo salire pure a mano. Dove fanno dei problemi, Danny? Non lo so, forse vuole pulito. Questo passava da un cantante all'altro, poi faceva il presentatore, faceva tutto qua. Cantante all'altro passava, li faceva tutti meravigliosamente, Vasco Rossi, ha fatto Renato Zero, ha fatto Claudio Villa, ne ha fatto mille, punti precisi, ma veramente che ti rimanevano incantati. Comunque Renato Zero è una star veramente. E adesso anche lui è grande. Ma dico una star, capito? Ci sono un paccaccio di dinà. Sì, vabbè. La fortuna, capito? Ha studiato, capito? È diventato famoso. La fortuna è anche, diciamo che è sempre disposti per certe cose, capito? Quando è predisposto e si migliora, migliora la vascola di canto, eccetera, si impreziosisce di più. Senza dubbio, vediamo un po' sta video. Io ero sceso un attimo al banco, vado a ritirare 6-7 mila euro per fare la cosa dopo. Solo? Fa occupare ora ti rimando lì, 7 mila euro. Io lo so, costa un bel. Anche l'altro in polvere lì dai, sai? No, con l'altro in polvere l'abbiamo finito, però vale. Io gli davo quello umana 1, umana 2, se c'erano tutti di chi ci di là. Io lo so già, gli ho fatto una cultura. Molte volte la pediatra qualche cosa ce la dava, quando ce li aveva, ma poche volte, quasi sempre lo compravamo noi. Quanto c'ha adesso il piccolino? 9 mesi. Di già? Sì, sono 6 kg. Sembra ieri che c'era un altro sapito. Già lo so, sì. Vabbè, dai. Però potrei che sono granditi già poi, già fa tutto liscio là. Qua salite la via Lumberto. Come vi sentite con le orecchie? Sempre bene, prova a vedere segnale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Per esempio, lo scale, no? 9, 25, 5. A te, ecco, sono a Sant'Amillo. Figura se metto una signorina, un accompagnamento qua. Tu quarantena me la devi prestare, sai? In realtà la faccio provare già, non c'ho problemi. No, a parte gli scherzi, sai cosa mi è successo nella strada di Alghero oggi? Come? Non sai cosa mi è successo nella strada di Alghero oggi? Mi si è staccata l'antenna e mi si è farata, mi ha graffiato tutta la macchina. Torna, un'altra volta. E allora? Adesso l'ho tutta quanta ripristinata, l'ho tutta riverniciata, ho fatto, me l'ha tutta graffiata la base. E un'altra volta, è troppo pesante quell'antenna, non fa lasciarla. Non devi correre. Per allora montare sulla magnetica. O perlomeno se vuoi un consiglio, vuoi continuare a utilizzare quella, ti devi comprare quella magnetica a 3, che è stata a 3. Mi sembra che sia troppo pesante. No, non stavo correndo, Tony, non stavo correndo. C'era vento e sicuramente anche quello che è fluito. Se c'è su internet me la ordine, mi piatto con la... Sì, guarda, perché io sono rimasto sorpreso. La verità, sinceramente, non la conoscevo. Mi è piaciuta vederla, però ho detto, l'estetica tutto. Bisogna visto che già re. Non so se mi sentite, se mi avete perso. Cambio. No, ma te ne la sotto a casa, se no ti brucio tutto, malefico. 9, 20, 25. A casa, non sei un disogo, eh? Davanti a Simon, quindi non so cosa tu casa a Giulia. Sapi, esatto, è veramente uno spettacolo, eh. È uno spettacolo con l'antenna. Ma ho constatato già dall'altra volta, quando parlavi, arriva più bene, proprio non ti sei preso niente, nulla. Veramente un'ottima antenna. 9.30, sì. Palazzi, qua sto per entrare esattamente in via Turrita. Non so se mi sentirete sempre, adesso provo a vedere se vi ascolto io almeno, ma è una galunata, Buonasera a tutti. Ciao Carlo, buonasera. Salve, ci sentiamo di brutto. Avanti Carlo. Allora, ciao Natalino, Saverio, Gianni, Luca e non lo so chi c'è. E c'è, allontanarsi dalla linea gialla. Ciao Carlo. Eccolo là, Tonino. Ciao Carlo. Non ti avevo sentito, come atteso avevo sentito solo Gianni, Luca, Saverio e Natalino. Comunque buonasera anche a te. Saverio, qua dove abito io, mi arrivi in fondo scala. Ciao Carlo. A me sui 9.30 arriva stesso Saverio. Arriva benissimo. Carlo, ancora non mi è arrivata adesso la risposta, non mi è arrivato il capito, la raccomandata indietro. Già ti arriva perché c'era sabato, domenica, insomma, e quella a volte te la mandano anche dopo 6-7 giorni. Vediamo un po' cosa ne esce fuori, dai Luca. Quando arriva cosa significa? Vabbè, che l'hanno ricevuta, giusto? Esatto, vuol dire che è arrivata a destinazione e l'hanno ricevuta. Poi eventualmente già mi informo anche io quando inizieranno a chiamare, se chiamano, capito? Ia. Speriamo bene, sono pazienza, ci abbiamo provato, dai. Tanto nella vita se non provi, è così, devi provare. Infatti, tentare non nuoce. Saverio, che antenna stai usando tu con la base magnetica? Saverio, sarà sceso la macchina? Non lo sento più, sì, sicuramente magari è sceso a fare spesa, si sentirà dopo. Natali, cosa mi racconti? E cosa ti devo raccontare? Quella che ho io, l'antenna pompa forte. E quella che c'ha Saverio com'è, di quelle tipo la tua?